angels for the destiny of love. Sai cosa ho fatto stamattina appena alzato? Sono andato in un negozio e ho comprato la tua combi. Me la sono sparata in macchina mentre andavo al lavoro. E ho lavorato regolare. Ci becchiamo dopo, ciao. Ti annoia? Cucina solo a base di soia. Quando tu non ci sei, con un altro trova gioia. Non mi rompere il marrone.

Alla vigile del sole. Noi viaggiamo mezz'oretta. Solo un po' niente per te. Gigi, mo te la faccio anch'io una rima. Lo squarenta mi tenta, il programmino mi tormenta, Los 40 mi fomentas. Vai Fabiolas.